5L. Ascolta e rispondi. Quanti fratelli hai? Non ne ho nessuno. Quanti caffè bevi al giorno? Non ne bevo nessuno. Quanti giornali stranieri leggi? Non ne leggo nessuno. Quanti ragazzi conosci qui? Non ne conosco nessuno. Quante sorelle hai? Non ne ho nessuna. Quante lingue straniere parli? Non ne parlo nessuna. Quante sigarette fumi? Non ne fumo nessuna. Quante multe prendi in città? Non ne prendo nessuna.